Convocati di Giovanni Capuano. In Italia in questo momento c'è una panchina vacante molto prestigiosa, è quella della nazionale. Questa per lei a questo punto è una possibilità? Guarda, in questo momento io penso al presente, alla decisione presa e maturata, ecco. Conte ed altri. E cosa hanno detto? Conte. Non mi ha dato risposta, perché se no ve lo direi. Certo. E come l'ha sentito? Comunque ottimista? Cioè gli interessa la proposta? Persona per bene, ho parlato normalmente, non ho sentito solo lui, quindi. Non le è sembrato stressato, no? Perché. Vi ho già detto più di quello che pensavo di dirvi. Ottimista, come ha sentito da questo punto di vista? Io sono ottimista per la federazione e per l'Italia, ecco, questo è il problema, certo. L'Italia. Seconda scelta? Lei è la terza scelta, è la seconda, la quarta no. Ho parlato con tre o quattro, grazie. Mancini l'ha sentito? Tre o quattro. Con te ritornerò in ginocchio a te. Saranno anche stati tre o quattro, come ha detto Tavecchio, la seconda, la quarta, la terza scelta. L'unica certezza è che da ieri e almeno per un altro paio di giorni il calcio italiano è in ginocchio davanti ad Antonio Conte, il prescelto, l'uomo della provvidenza, l'unico nome mi sembra capace di garantire consenso intorno al presidente meno amato, almeno all'inizio del suo mandato, della storia della Federcalcio. 800 24 00 24. Intanto Lotito ha fatto un passo indietro, comunicato all'ANSA: scelgo di rinunciare a posizione di governance, vale a dire a vicepresidenza o responsabilità del Club Italia, perché prima vengono le idee, i progetti e poi le persone. Questo Claudio Lotito mezz'ora fa, una dichiarazione che toglie alcuni dei problemi che Tavecchio ha sulla strada in questa sua prima settimana di mandato. 800 24 00 24. Mi interessa sapere se siete convinti che Conte sia davvero la soluzione giusta, oppure sia soltanto la migliore delle foglie di fico possibili. Oggi 13 agosto 2014, ricordo, mancano 22 giorni all'amichevole con l'Olanda, e il sospetto che Conte sia soltanto un meraviglioso paravento di questa nuova federazione può venire, a me almeno in queste ore è venuto. 800 24 00 24. Enzo Bucchioni, ciao. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, ciao. È venuto anche a te il sospetto? Ma sì, molto forte, perché sarebbe un colpo fantastico per un nuovo presidente della Federcalcio, che si è portato dietro tutte le polemiche che sappiamo, presentarsi con l'allenatore più forte che c'è in questo momento in Italia, più cercato anche da molte società all'estero, quello che ha vinto negli ultimi 3 anni 3 scudetti consecutivamente, ha fatto più di 100 punti, che è un record straordinario. Quindi ti presenti con Conte e allora qualcuno potrebbe pensare, allora sto Tavecchio fa sul serio. Ecco, io ho questa sensazione. Non so se cosa risponderà Conte, qualche dubbio ce l'ho, perché l'ultima volta che ho sentito di prima mano le sue impressioni era un pochino lontano culturalmente e mentalmente dalla nazionale, poi nel calcio cambia tutto in fretta. Sì, era lontano, era lontanissimo, io questo te lo posso confermare, era lontanissimo fino all'altro ieri sera alle ore 20, poi evidentemente nelle ultime 24 ore qualcosa è cambiato. È una scommessa che ruota tutta intorno alla possibilità di far fare ad Antonio Conte quel quello che vuole e sa fare davvero, e cioè l'allenatore da campo, l'allenatore a tutto tondo, non soltanto selezionatore ma qualcosa di più. Scommessa difficile, pericolosa, anche per questo, al di là dei soldi, si sta trattando su clausole da mettere nero su bianco di questa fantomatica collaborazione che i club dovrebbero dare alla nazionale, che personalmente mi lascia un po' perplesso, anche considerato come va tradizionalmente questo tema. Sì, ma guarda, io dal 94 che sento parlare, no, anzi prima, dal 91 che sento parlare di questa storia, quando Matarrese chiamò Sacchi ad allenare la nazionale. Sacchi era un allenatore di campo, non era un selezionatore, non aveva bisogno di avere i giocatori sotto mano tutti i giorni, perché era, tra virgolette, maniacale nel suo atteggiamento culturale calcistico. E poi abbiamo visto come è andata a finire, anche lì gli avevano promesso stage una volta al mese, raduni contro raduni, le società disponibilissime, poi in realtà le società disponibili non sono, perché il patrimonio dei giocatori è loro, perché le società soprattutto devono vincere, hanno paura di infortuni, hanno paura di distrazione del loro patrimonio calcistico, e quindi poi te lo promettono ma poi non li fanno gli stage. Io voglio vedere le società grandi e piccole concedere i loro giocatori una volta al mese a Conte, ma neanche se ci credo, perché poi l'hanno promesso a tanti, l'ultimo Prandelli, ricorderete un anno fa la polemica che ci fu fra Prandelli e alcuni club quando negarono i giocatori per fare questi famosi stage, che poi non si sa bene cosa significhi. E quindi io credo che Conte questi problemi li conosca molto bene, li sappia, e sappia anche che non è l'allenatore adatto per la nazionale, perché lì serve un selezionatore. Il discorso è vecchio ma sempre attuale, e lui invece è un grande allenatore. Sì, Conte, che da grande allenatore, da tecnico della Juventus, ovviamente della questione ingerenze della nazionale sulla vita dei club la pensava in maniera diversissima, perché tra quelli che polemizzavano con Prandelli in prima fila c'era proprio Antonio Conte, che in quel momento faceva gli interessi legittimi della Juventus, certo, così come tutti gli altri allenatori. Io non so se Antonio Conte sarebbe stato felicissimo, ad esempio, di ricevere la visita di Prandelli in ritiro, carta bianca per parlare con i giocatori, fare il punto, vedere insieme, analizzare. 800 24 00 24, mi interessa anche sapere da casa che cosa ne pensate, ad esempio, se per voi, ma non oggi che si deve convincere Conte, la grande foglia di fico, chiudete gli occhi e andate a gennaio, a febbraio, quando saremo nel momento decisivo della stagione. Beh, se per voi viene prima il vostro club, magari quella settimana di allenamenti che è l'unica in mezzo a un calendario affollatissimo, oppure il bene della nazionale in vista di qualificazioni per gli europei del 2016, che comunque sulla carta sono blindate perché passano le prime due, e insomma non andare a quegli europei sarebbe davvero davvero difficile, insomma sarebbe davvero un fallimento. 800 24 00 24, qualche messaggio che è arrivato. 349 238 6666, sembra che la soluzione di tutti i mali del calcio italiano sia la nazionale, si deve pensare a cose più importanti. Questo è Patrick, ma vedremo anche questo, cominciamo a misurare in questa settimana l'attivismo di Tavecchio. A proposito, Enzo, ti convince l'attivismo di Tavecchio? Ieri ci ha tenuto a sottolineare, mi sono svegliato alle 7 per cominciare a lavorare, mi ha un po' ricordato i tweet di Renzi da Palazzo Chigi all'alba sui dossier. Ma guarda, a me anche la sessione di Tavecchio interessa ben poco, per me può dormire anche fino alle 10 la mattina, perché poi se lavora di notte, cioè non è un problema se si sveglia alle 7, il problema voglio vedere cosa riuscirà a fare, e sono tantissime le cose da fare. Vedi, già cominciamo con un'ingenuità, perché secondo me Tavecchio è un dirigente che ha sempre lavorato in certi ambiti, un'ingenuità a proporre a Conte queste cose, perché non le potrà mantenere. Quindi quando diciamo che non ha esperienza a certi livelli Tavecchio, questa è la prima dimostrazione, perché se io fossi presidente della federazione non mi sognerei neppure di andare a sottoscrivere un contratto con il CT, sapendo che poi fra qualche mese non sono in grado di mantenere e mi salterà tutto, perché avrò l'ostilità dei club. Quindi io gli auguro tanto bene, soprattutto tanto bene al calcio italiano, che ha bisogno veramente di cambiamenti epocali. Se Tavecchio sarà in grado di farli, io mi cospargerò il capo di cenere e sarò ben lieto di farlo, sottolineo, per l'Italia, che ha bisogno di tante cose. Però le perplessità sono tantissime, a livello culturale suo, da dove proviene, 15 anni di dilettanti sono dilettanti, un grande popolo, una grande risorsa per il calcio italiano, ma sono dilettanti, e dal punto di vista carismatico anche a livello internazionale ci domandiamo, ma chi è Tavecchio? Andatelo a chiedere a Platini o a questi signori, con tutto rispetto, magari, ripeto, io voglio che mi smentisca, ci smentisca tutti, però le perplessità sono tantissime. Sì, e poi ci sono anche perplessità legate ad esempio allo stipendio di Conte, che non è il milione e mezzo netto che la federazione aveva nel budget. Credo non sia l'aspetto più importante, ci si può venire incontro, le soluzioni ci sono, si parla degli sponsor, però ad esempio 3 mesi fa, e tu ne sai qualcosa, discutevamo dello stipendio di Prandelli nel momento della spending review, e allora magari fra un paio di settimane qualcuno potrebbe tirar fuori lo stesso argomento anche per Antonio Conte. 800 24 00 24, traffico. È inutile ci giriamo intorno e dire che io vedo i fantasmi. Iniziate a non dire fesserie. Tutti convocati. Agghiacciante quello che dicono. Agghiacciante quello che dicono. Conte è un grande allenatore, è un professionista che può far bene sia a livello di club che di nazionale, però sono scelte che non competono a noi. Il rapporto che ho col mister sarebbe il massimo per me vederlo in nazionale. Queste sono domande che secondo me solo lui può rispondere, solo lui può capire cosa vuole davvero e di cosa ha bisogno. Perché volevo dirti che io sono arrivato alla conclusione che avendo un anno sabbatico Antonio Conte potrebbe dare una mano a noi della Ferrari. È un grandissimo motivatore. Io vorrei suggerire quest'idea a Marco Mattiazzi. Mi piacerebbe, Gigi, ritrovare Antonio Conte, allenatore della nazionale? Beh, sicuramente non mi sorprende la vostra fervida fantasia, anzi mi fa sorridere, perché giustamente vuol dire che sapete fare molto bene il vostro lavoro, però io penso, avendo visto anche il video del mister, che il mister non stesse pensando al futuro. Eh sì, la fervida fantasia dei giornalisti, poi la fantasia di Tavecchio è arrivata e in 24 ore ha ribaltato tutto. C'è chi parla di Lotito, Deus Ex Machina della Federcalcio. Ripeto, comunicato all'Ansa di mezz'ora fa, Claudio Lotito: scelgo di rinunciare a posizione di governance, e vale a dire alla vicepresidenza o alla responsabilità del Club Italia, perché per me prima vengono le idee e i progetti e poi le persone. Claudio Lotito, che dunque fa un passo indietro, capiremo anche chi sceglie il CT dell'Italia, se davvero esiste questo veto su Mancini di cui oggi scrivono tanti giornali, o se alla fine si sceglierà davvero per il meglio anche nel caso Conte dicesse di no. 800 24 00 24, scrive un amico, Enzo, Mario Davarese: ipotizzando Conte CT, se non convocasse Balotelli perché poco serio professionista, come tratterebbe la stampa questa scelta? Beh, lì bisogna trovarsi nella situazione. Sicuramente Conte sa, se accetterà di fare il CT, che sarà il bersaglio di molti, come è stato per Prandelli, perché la nazionale è qualcosa che appartiene a tutti, no? Non è una banalità dire che ci sono 50 o 60 ora milioni di CT e tutti i giornalisti, a seconda anche della zona da quale di provenienza dei giornali, tirano per un giocatore piuttosto per un altro. Questa è la storia della nostra nazionale. Quindi Conte, siccome è stato un nazionale, ha giocato per tanti anni in azzurro, prima di fare l'allenatore sa benissimo come funzionano certi meccanismi, è grande vaccinato e sarà una delle cose alle quali lui dovrà far fronte, rispondere ed essere assolutamente preparato, ma lo sarà di sicuro. Sì, Stefano dalla provincia di Grosseto, poi ci sono anche Renzo e Giuseppe. Stefano, buongiorno, grazie per avermi convocato. Grazie a te, prego. Io volevo manifestare il mio disappunto su il grande Conte, ma non per qualcosa, perché il calcio è lo sport, ha bisogno di pulizia, ha bisogno di visi che diano una tranquillità, una certezza di pensiero, senza questi giochi di potere, senza questa volontà di arrampicarsi sull'albero di chi sta più in alto perché può in qualche maniera comandare. Siamo stufi, il calcio per me, ma non credo solo per me, significa anche un momento di libertà, di allontanamento. Sì, Stefano, non so cosa c'entri Conte in tutto questo. Conte è un allenatore che in questo momento non ha panchina, gli viene fatta una proposta professionale, è il numero uno in Italia in questo momento senza panchina, su questo credo non ci sia dubbio. Mi sembra che Conte non sia coinvolto in nessun gioco di potere, è una proposta professionale, fa le sue condizioni, vedremo che cosa ne viene fuori. Renzo da Venezia, Renzo. Sì, grazie per la convocazione. Prego, dica. Allora, niente, io sicuramente Tavecchio non è simpatico a molti italiani e la scelta è stata fatta. Mi auguro da juventino che Conte, essendo poi un tifosissimo, non accetti la candidatura a diventare allenatore della nazionale, in modo da dover poi, non dico sbugiardare, però anche far sì che il signor Tavecchio si comporti in maniera più educata nei confronti degli altri tre o quattro nomi, perché se si, come si dice, si comporta in questa maniera, non è una bella scelta quella di dire ho chiamato Conte e altri tre o quattro, e gli altri tre o quattro saranno sempre le seconde, le terze, le quarte scelte. Sì, è anche un cast in modo totale. Sì, non sarebbe la prima volta, parlando di Tavecchio, però in questo caso secondo me ha un attenuante. L'attenuante è quella dei tempi strettissimi. Entro lunedì deve annunciare il nome del prossimo commissario tecnico. Lunedì mancheranno un paio di settimane scarse al raduno della nazionale in vista dell'amichevole con l'Olanda e soprattutto della prima partita delle qualificazioni europee contro la Norvegia, e quindi io trovo normale che con grande franchezza e trasparenza si dica ne abbiamo tre o quattro, il numero uno è quello, lo lasciamo capire, però dobbiamo trovare un nome. A proposito dello stipendio, Enzo, perché in tanti ci stanno scrivendo 349-238-6666, ma come, Conte vuole 3 milioni all'anno, è il doppio del budget della federazione in un momento di crisi in cui tutti devono tirare la cinghia, eccetera eccetera eccetera. Sì, guarda, fra l'altro ricordiamo anche cosa ha detto Tavecchio prima delle elezioni, 20 giorni fa, aveva detto assolutamente non avrebbe preso allenatori con quello stipendio, con quelle pretese, perché pensava a un allenatore federale, quando venne il discorso allenatore federale, cioè nato all'interno di Coverciano e con pretese limitate. Noi ci siamo posti questo problema, noi come Quotidiano Sportivo, per Prandelli, quando Renzi disse i manager pubblici non devono superare le 300.000 euro di stipendio. Quindi Prandelli all'epoca prendeva 1,5 e sarebbe stato portato a 1,7 se fosse rimasto CT della nazionale, e quindi questo interrogativo io credo che sia logico porselo anche oggi, a meno che non incidano su questo budget degli sponsor privati, ma deve essere tutto alla luce del sole, tutto dimostrato e dimostrabile, perché altrimenti se spendiamo una cifra di quel genere lì per essere poi il paravento di Tavecchio, allora non mi sta bene, perché qui torniamo al discorso tuo iniziale, perché si fa questa corte serrata a Conte? Perché serve prendere il numero uno per dimostrare subito che la federazione funziona, ma io non credo che si faccia così l'interesse del calcio italiano, perché poi Conte viene volentieri, è costretto dal punto di vista politico, ci sono tanti interrogativi, tu dici sono 48 ore fa i suoi dubbi, i miei sono un pochino più vecchi di 20 giorni fa, però a Conte a me ha detto io voglio trovare una società che mi possa garantire di provarci la Champions, il mio prossimo obiettivo è quello, voglio rimanere in un club, ecco, se poi politicamente lo chiama qualcuno e lo convince è un gioco che non mi sta bene, si parte già con il piede sbagliato. Sì, ho l'impressione che sia molto tirato per la giacca Conte o per il costume, visto che si trova in barca nel Mediterraneo, ma in queste ore ci siano tanti che per tanti versi stanno facendo pressioni. Poi ci sono gli altri, quelli ai quali invece il cellulare ieri potrebbe anche non essere suonato. Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no, no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io, no, no. Una trattativa Mancini nazionale è in realtà semplice o è un po' complicata? No, dipende, una trattativa è una trattativa e ci sono c'è il lato economico, il lato che tutto quello che riguarda il tecnico, quindi ci sono tante cose, non è una trattativa, è fatta di tante cose, non è fatta solo del lato economico come si legge da settimane, insomma non è solo quello, questo vale sia per la nazionale che per un club. E vengo anch'io. Vedo che molti si candidano, io non mi metto tra quelli che si candidano, credo che tocchi ai dirigenti federali valutare bene le caratteristiche dell'allenatore che serve soprattutto in un momento come questo. E puoi sperare tutti in un mondo migliore. Uno potrebbe farlo anche gratis. No, ma lei dico, signor Gabrini. Sicuramente potrei farlo, penso che siano su 10 allenatori, 9 direbbero di sì. Sì, no, ma lei dico, cioè, signor Gabrini, lo farebbe gratis. Sei il decimo o sei il nono? L'allenatore della nazionale, non si è capito questo. Cioè, gratis, certo, sì. Garanzie dovute, certo. Perché? No, io niente, sono solo di passaggio. Di passaggio perché gli hanno di nuovo offerto la candidatura? Assolutamente no, perché sto aspettando mia figlia. Ma perché secondo lei quale sarebbe il migliore allenatore adesso? Quello che sceglieranno. Tutti di passaggio, nell'ordine, Mancini, Zaccheroni, Cabrini, Tardelli, tutti lì col telefonino in mano, non credo siano stati chiamati, credo sia stata una mezza bugia assolutamente giustificata in questo caso quella di Tavecchio ieri. Sì, però i nomi sono questi, se Conte dovesse dire di no, che i nomi più gettonati, qualcuno secondo me non va bene, non andrebbe bene, parlo di Tardelli, parlo di Cabrini, grandissimi giocatori, bandiere del calcio italiano, però da allenatori, soprattutto nei club, cosa possono dirci, cosa hanno fatto, serve un nome sicuramente, ma serve anche un allenatore, poi le squadre vanno allenate, bisogna vincere, poi non è che con i nomi hai sempre l'automatismo, metto un grande campione e la nazionale la faccio risorgere. Io sono più contento, sarei più contento se andasse sulla panchina nazionale un allenatore che ha già vinto con i club, che ha una grande esperienza internazionale, e quindi allora i nomi che circolano nell'ordine sono Conte e poi sono Mancini e poi anche Zaccheroni. Non dimentichiamo Zaccheroni che in Giappone 4 anni ha fatto benissimo, ha portato il mondiale a una nazionale, ha insegnato calcio in un paese che non sapeva neanche cosa fosse la tattica. Zaccheroni continua a crederci, secondo me fa bene, fino una prova contraria per mille motivi, alla fine il profilo giusto potrebbe essere il suo. Enzo, ti rubo ancora due minuti, ci sono Paolo da Treviso e Giuseppe D'Alecco. Paolo, buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti. Sono state già dette le cose che vorrei dire io. Innanzitutto i diktat di Conti in questo momento non sono proprio il momento più opportuno per farli, perché o ci si adegua un attimino a quella che è la situazione complessiva e generale, o altrimenti devi avere la forza di dire non è il mio momento. E poi soprattutto Conte è un allenatore, cioè se lui pensa di fare il gioco che ha fatto con la Juve se lo scordi, perché ha a disposizione un bacino di utenza di 30 giocatori, non di più. Allora o convoca tutta la Juve e poi alla fin fine i 3-4 stage all'anno non sono in grado di dare quel tipo, quell'impronta di gioco che lui sa fare molto bene. Sì, 3-4 stage che se tutto va bene saranno 2 o 3, Paolo, non allarghiamoci con i numeri. Secondo me il vantaggio, Enzo, lo dico anche a te, è che il gruppo più o meno è quello, cioè quello di Prandelli, aggiungi 5, 6, 7 forse che sono rimasti a casa, che erano immediatamente spendibili, però da questo punto di vista c'è poco da inventare. Sì, assolutamente, l'allenatore della nazionale non deve inventare niente, deve prendere un modello che va per la maggiore nazionale, e questo è stato uno degli errori di Prandelli, di giocare con un blocco juventino e poi far giocare tatticamente in maniera diversa con la squadra lì. La Juventus giocava con il 3-5-2, lui doveva riproporre il 3-5-2 e festa finita, come si dice, invece sappiamo come è andata a finire. Certo, Conte partirebbe sotto questo aspetto assolutamente avvantaggiato, perché il blocco della Juventus resterà con 2-3 innesti importanti da altre squadre, però i miei dubbi restano intatti, perché io vedo Conte un allenatore che tutti i giorni martella, il famoso martello, quando parliamo di un allenatore martello, ecco, Conte è questo, tutti i giorni entra nella testa dei giocatori, li fa ripetere 10 volte la stessa diagonale, la stessa sovrapposizione, come può farlo con la nazionale? Ma queste perplessità, è il primo a sollevarle, è stato lui. Sì, è il primo a essere poco convinto, poi ripeto, in 24 ore è cambiato tutto. Giuseppe D'Alecco, rapidamente perché siamo in borsa, Giuseppe. Benissimo, grazie di avermi chiamato. Volevo semplicemente dire una cosa. Il calcio italiano ha bisogno di roba seria. Anche le squadre, i club devono fare i seri. Tavecchio li mette tutti, secondo me, li dovrebbe mettere tutti in riga. E poi Conte, mi dispiace, è passato per un semplice motivo, perché scusate se mi permetto, che nessuno ha mai detto questo, è condannato. Sì, ma abbiamo bisogno di pulizia. Sì, ma nella storia del calcio italiano, Giuseppe, per carità, in tanti lo state scrivendo, però noi abbiamo anche vinto il mondiale con i gol di Paolo Rossi ed è andata benissimo così. Dal mio punto di vista è condannato, ha scontato i suoi mesi di squalifica e punto. Da questo punto di vista si volta pagina e quindi facciamo altri ragionamenti. Io onestamente non mi entusiasmo a fare la scelta del CT col casellario giudiziario sportivo di un allenatore piuttosto che di un altro, però io la penso così. Ciao Enzo, grazie. Sì, la penso così anch'io, anche perché quando parliamo del reinserimento di chi va in carcere, che è una cosa ben più grave e che diventa un cittadino come tutti gli altri, non dobbiamo dirlo anche per i tesserati sportivi. Conte ha pagato, ha scontato, è uguale a tutti gli altri, questo è un segno di civiltà. Borsa, grazie a voi, buon pomeriggio, a presto, ciao. Ciao Borsa. Cosa farà domani Antonio Conte? Ci penserò domani, ecco. Tutti convocati. Sì, poi c'è chi scrive, chi ha detto che Conte è il numero uno, dimenticate Mancini. No, ma anche Mancini è un numero uno tra quelli senza panchina e difatti è nella rosa degli altri, quelli che aspettano una telefonata. Maurizio dice Conte è uno spreco, poi c'è chi scrive cosa ha vinto Conte in campo internazionale, e poi Aldo, la verità è che della nazionale non interessa nulla a nessuno, a parte il mese del mondiale o dell'europeo, per i tifosi del club è un impiccio. Questa è la grande scommessa di Conte e di Tavecchio. Orlando da Milano. Orlando, buongiorno. Prego. Sì, volevo chiedere, Guidolin figura tra i papabili come nome figura tra i papabili, ma mi pare con un profilo assolutamente inadatto a quello di selezionatore, di guida di una nazionale, dove comunque le pressioni ci sono. Se si discute ad esempio la caratura internazionale di Conte, ed è un'argomentazione legittima, a maggior ragione secondo me si può discutere la caratura internazionale di Guidolin, che non ha nessun tipo di esperienza a quel livello, o no Orlando? Mi pare che anche Prandelli, prima di arrivare in nazionale, non avesse una grossa caratura internazionale, mi sbaglio? Sì, non è necessariamente il requisito numero uno, poi c'è il resto, poi c'è la capacità di reggere le tensioni, ad esempio, e l'ha raccontato Guidolin. Quando proverà un allenatore Guidolin ad avere la sua possibilità, visto che l'Udinese è una squadra semplice, con diversi personaggi, giocatori da tutte le parti del mondo, ha creato un gruppo compatto e serio, ottenendo dei risultati apprezzabili, ecco. Italia, credo che ci sia la volontà, bisognerebbe fare, adesso io magari l'esempio dell'Inter, bisogna vedere, avere il coraggio di come quello sta facendo un po' Tuir, di spazzare via il passato e di ricominciare da zero, anche se il segnale di Tavecchio effettivamente non è un buon segnale, però credo che l'orientamento, imparando anche dai mondiali, delle piccole squadrette, la Colombia e tutte le altre, penso ci bisogna di sostanza, non di nomi. Conte è un personaggio, Buffon uguale, basta, il calcio ha bisogno di gente che fa. Sì, di gente semplice, però Orlando, perdonami, mi sembra che Guidolin, lui per primo, abbia scelto sostanzialmente in questi mesi di fare un passo indietro, di ritagliarsi un ruolo diverso. Forse il tempo per Guidolin di fare salto in una grande esperienza, o in un grande club, o potrebbe essere la guida della nazionale, forse quel treno è passato qualche anno fa, e non so se lo stesso Guidolin in questo momento sarebbe disponibile. Antonella da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda il discorso dell'allenatore, io non credo affatto, magari lunedì sarà nominato Conte, non credo affatto che ci sia intenzione di nominare Conte, credo che soltanto sia stata una specchietta per le allodole, per catalizzare l'interesse dell'opinione pubblica su Conte e non sull'elezione di questo signore. Se mi permette un attimo, sento gente che parla della condanna di Conte, giustamente, sì. Eccetera. A casa mia mi avranno educato in una maniera sbagliata a questo punto, perché io penso che un signore come Tavecchio, al di là delle sue esternazioni allucinanti, che è stato condannato per 5 volte, condannato e processato 5 sì. volte, non possa fare il presidente federale. Però vedi Antonella, al di là delle opinioni c'è uno statuto che dice che invece può farlo, perché c'erano dei limiti di condanna, c'erano dei tecnicismi che comunque fanno parte anche di tanti altri settori della vita, non solo dell'elezione per il presidente della Federcalcio, e quindi da questo punto di vista l'elezione di Tavecchio è assolutamente legittima. Poi da questi microfoni ne abbiamo parlato per settimane, la nostra posizione la conoscete, però oggi secondo me non si può riaprire il discorso sul casellario giudiziario di Tavecchio, sulla condanna di Conte. A questo punto sono scelte di mercato che vanno fatte scegliendo quello che è il CT migliore, almeno questo. Poi dopo ci sono tanti altri discorsi. C'è un calcio che sta procedendo, sta vivendo le settimane del calciomercato e si divide un po' tra le stanze di Roma, un po' sulle spiagge della Versilia e un po' a tavola. Carlo Laudisa, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a tutti. Questa sera grande cena ad Arcor, nel menù antipasto, sfoltimento della rosa del Milan, primo piatto Zemaili per il centrocampo, secondo magari il sogno di Douglas Costa, nel dolce il Pocio Lavezzi che di queste stagioni va sempre bene, poi c'è il conto e tutto ruota intorno alla volontà di Silvio Berlusconi di pagarlo questo conto. Mi pare di aver capito che oggi Galliani e Inzaghi vadano sostanzialmente a chiedere a Silvio Berlusconi quanta voglia ha di pagare il conto della campagna acquisti del Milan. Sì, e soprattutto il conto poi finale che è già in rosso, già pesantemente in rosso a causa della mancata qualificazione di Champions League. Ricordiamo l'ultimo esercizio, quello del Milan è sempre su base diciamo solare, anno solare, no? Perché è un consolidato, aveva un meno 15, così a spanne ci aggiungiamo i 40 che mancheranno, quindi siamo a 55, considerato che sì, c'è stato un risparmio di 20 milioni di euro sinora fra cartellini e soprattutto fra ingaggi risparmiati, ma arrivare a un altro investimento importante comporterebbe evidentemente portare quel rosso a circa 60 milioni di euro. Sì, cosa che rende secondo me abbastanza difficile il ragionamento su Cerci. Mi sembra che molto opportunamente Galliani stia tenendo aperta la porta per Tarabt. Non so perché, se avessi 5 euro da scommettere, io alla fine scommetterei sul ritorno di Tarabt più che se l'arrivo di Cerci, che comunque costa per quanto a rate, ma insomma sono soldi che il Milan dovrebbe tirar fuori. Ma io non a caso oggi nella ritorazione abbiamo puntato sull'alternativa Lavezzi e Douglas Costa per due ragioni fondamentali, perché da quello che posso capire alla fine Inzaghi su Tarabt non è convintissimo, e credo anche ha ragione, perché noi abbiamo visto un bel Tarabt partire da, diciamo, da trequartista, da mezz'ala offensiva. È vero che può fare anche l'esterno, ma non ha quelle caratteristiche specifiche. Lui vuole un giocatore che effettivamente un mancino che partendo da destra vada a chiudere. E da questo punto di vista l'archetipo può essere proprio Douglas Costa, anche perché poi costa quel che costa, cioè 5 e milioni. Non costa poco, anche lui. Appunto, ha comunque 23 anni. Sì, sarebbe anche un investimento con scelta diversa, ad esempio da quella criticata, diciamo, di Diego Lopez, che è costato zero come cartellino, ma a quasi 33 anni ha di fatto impegnato il Milan a 20 milioni di euro per i prossimi 4 anni, quando ne avrà quasi 37. All'ordo, certamente. Qualcuno ha storto il naso, secondo me anche correttamente, detto che, e lo ripetiamo, Diego Lopez è certamente un ottimo portiere. C'è Pietro che scrive e chiede: ma si sa qualcosa di Balotelli? Sarà forse la prima estate in cui Raiola non riesce a piazzare un suo assistito? Ma io credo che lui spera questo, che sia la prima estate di riposo sul fronte Balotelli, augurandosi poi che Balotelli nella prossima stagione, come gli ha ricordato ieri De Jong, oltre al compleanno festeggia anche la maturità. Questo è l'auspicio di tutti. tutti, no? Perché in quel tweet mi sembra che ci sia un pensiero comune, perché, e credo anche dello stesso Balotelli, perché è lui stesso il primo a sapere che deve finalmente mettere a punto la macchina e quindi cercare di associare al talento anche quella costanza, quell'equilibrio che sinora non ha avuto. Sì, siamo davvero in questo caso all'ultima chiamata. Sulla sponda Milan sicuro. Sì, ma credo anche per la carriera di Balotelli in generale. Sì, a un certo livello sicuramente, cioè prima o poi finirà di essere il grande talento con il futuro davanti e si girerà le spalle, si accorgerà che quello che ha fatto comincia a essere la parte più importante del suo percorso. Mi confermi che è arrivata l'offerta per Benatia? La conferma non te la posso dare perché se ne parla già da troppo tempo questa offerta, per cui vediamo, è un po'... In questi giorni sto leggendo, oltre a quello che acquisiamo come notizie, troppa confusione sul fronte inglese, perché un giorno si parla di una cifra, un giorno di un altro. La realtà è che al momento non si è mosso nulla, né per quel che riguarda lo United con Vidal, e quindi anche su questi forse del Benatia e tutto il resto. È una situazione sicuramente da leggere con grande attenzione, ma che al momento c'ha anche tante controversioni. Non so se sei in una stanza dove stanno scuoiando qualcuno perché sentiamo dei rumori. No, siamo al centro di Milano, stanno facendo i rumori e quindi mi sto allontanando. I cantieri d'agosto, sono nel famosi e temutissimi cantieri d'agosto. Sì. Per chiudere, abbiamo 30 secondi prima del traffico, volevo chiederti a proposito dei cantieri qualcosa sul Napoli, questo clima di depressione che ha preso, ma io credo anche in maniera giustificata, la piazza di Napoli per la campagna acquisti che ancora non si vede delineata in maniera chiara da parte di De Laurentiis. Secondo me manca qualcosa più di Fellaini, però mi sembra, questo è il dato più interessante, che cominci a essere insofferente anche Benitez. Sì, io credo che pensare che De Laurentiis non voglia spendere i denari mi sembra un po' ingeneroso, anche perché abbiamo visto negli scorsi anni che alla fine lui ha sempre investito. E comincia a essere preoccupante il fatto che non sia ancora accaduto nulla, ma è un po' tutto quello che stiamo vedendo su larga scala. Neanche i club inglesi si stanno muovendo, quelli che hanno i soldi e che hanno un'ampia scelta. Io temo che il Napoli si stia in coda a questa ondata, senza dimenticare peraltro che c'è un preliminare Champions League da disputare. Sì, che farà da spartiacque, come sempre capita. Credo fosse uscito uno standard Liegi qualsiasi, probabilmente De Laurentiis avrebbe magari accelerato alcune operazioni. È uscito l'Athletic Bilbao, io non credo che aspetterà il 28 di agosto, ma probabilmente almeno di capire a metà settimana prossima come va la partita davanti. Può essere che De Laurentiis questo ragionamento lo stia facendo. Grazie Carlo. Grazie a voi, ciao a tutti. Alla prossima, ciao. Verum est quod latine loqueris. Lei, per esempio, questo elemento di, come dire, di etichettarmi quasi come qualcosa di fuori dal normale, perché uno parla il latino. Tutti convocati. Cristiano de primera dándole velocidad para James Rodríguez, se ha escorado sobre la banda izquierda Gareth Bale, Benzema buscando el centro, segundo palo, Cristiano, gol para Benzema, Benzema la deja Cristiano en posición de remate, le pega Cristiano, gol del Madrid, gol de Cristiano Ronaldo que dobla las, si no reacciona rápido el Sevilla. Fortunato anche perché gioco, cioè, al gioco allena una squadra che sembra essere di gran qualità. Quando un giocatore ha talmente tanta qualità come Kroos, come Rodriguez, non hanno molta difficoltà a entrare in un sistema di gioco, in uno stile. Lo hanno fatto molto bene oggi, ma certamente vanno a migliorare, però diciamo il primo impatto loro è stato molto buono. Sono un ragazzo fortunato perché m'hanno regalato un sogno. E poi ci sono quelli bravi e fortunati come Carletto Ancelotti, che non ha bisogno di aspettare il risultato del preliminare di Champions League, ha già una squadra meravigliosa che reduce dalla vittoria della Champions, ci ha aggiunto un paio di perle così giusto per scherzare, e ieri secondo me anche a sorpresa, al di là della vittoria che era probabilmente scontata sul Siviglia, ha comunque fatto vedere che questo Real Madrid ha già una sua anima, che si può essere fortunati e però anche non soffrire al primo impatto con una rosa che è mostruosa, per qualità, per quantità, per lunghezza. Mimmo Di Carlo, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, salve. C'è un pizzico di invidia quando si osserva poi un allenatore come Ancelotti, ma l'ha detto lui stesso, cosa posso pensare di aggiungere io a questa squadra? C'è talmente tanto che devo semplicemente farla funzionare. Ma più che invidia è una cosa invece molto positiva, perché comunque abbiamo un allenatore italiano che allena una squadra che l'anno scorso ha vinto la Champions League dopo tanti tanti anni, dove tanti allenatori importanti ci sono arrivati vicino e non ci sono riusciti, quindi facciamo il tipo per Ancelotti, perché oltre ad essere un gran allenatore è anche una gran persona che stimo molto, quindi complimenti a lui, alla squadra, e sono d'accordo con lui che basta vedere come gioca il Real Madrid e ognuno mette qualcosa in quella squadra, e avendo tanta qualità chiaramente tutti si sentono importanti e non c'è nessuna prima donna. Sì, lui ha detto ci sono giocatori con talmente tanta qualità che non si fa fatica poi a costruire una squadra. Ricordo che un anno fa l'inserimento di Bale nel meccanismo del Real Madrid ereditato da Mourinho non fu così semplice, si arrivò più o meno a Natale. Però bisogna anche dire che Bale arrivò con fisicamente che non era assolutamente in forma, quindi ha dovuto aspettare 2-3 mesi per rimetterlo nelle condizioni giuste. Poi chiaramente Bale ha dimostrato quello che perché il Real Madrid l'ha preso, perché è un giocatore straordinario, resistenza fisica, tiro, tecnica, scatti, sono quelli che fanno la differenza soprattutto nelle grandi squadre, dove troveranno sempre squadre chiuse che non hanno bisogno di tanti giocatori dell'uno contro uno di essere forti. E io sono d'accordo su una cosa, ma non su quello che ha detto sul discorso del sì, ci sono giocatori di qualità e già questo fa vincere, no. Lì c'è un'idea importante di Ancelotti, la gestione, che è straordinaria, soprattutto la sua idea di gioco, che è quella che tutti corrono, tutti pressano e tutti costruiscono gioco, e questa è anche l'idea dell'allenatore. Sì, io non sono nemmeno convinto che in questa stagione noi vedremo Ronaldo, Bale, Benzema, Kroos, Rodriguez tutti insieme, anche nelle partite dove poi di fronte magari hai il Barcellona, il Bayern Monaco. Questa può essere una versione del Real Madrid dedicata certamente alla Liga, certamente a tante partite interne al Bernabeu, dove tra l'altro sono anche molto esigenti per la qualità del gioco, ma io sono sicuro che poi Ancelotti, essendo certamente un allenatore preparato, intelligente e anche in maniera sana, realista, saprà poi anche prendere determinate contromisure, perché così è bello da vedere, però si rischia, Mimmo? Beh, sicuramente sì, però l'idea di gioco è quella lì, cioè l'idea di poter mettere in quella squadra questi giocatori qua, cercando di trovare nel possesso palla, nelle velocità, nei singoli giocatori che comunque ti fanno la differenza, di arrivare a vincere il campionato e rivincere una Champions League, perché secondo me lì è l'obiettivo. È chiaro che poi ci sono le altre squadre che sicuramente metteranno in difficoltà il Real Madrid, però l'idea di giocare a Madrid è comandare e vincere tutte le partite fino alla fine, perciò quindi questo Ancelotti e la società penso abbiano pensato a questo, cercando di arrivarci più per gradi, e penso che il secondo anno di Ancelotti sarà sicuramente migliore dell'anno scorso, dove ha dovuto metterci un po' più di tempo per dare, per mettere la sua impronta al Real Madrid. Sì, è che comunque insomma si è chiuso alzando la decima la Coppa dei Campioni, cosa che non è riuscita a tanti suoi predecessori, mi pare poter dire, dando un'occhiata, non so se condividi, in quest'estate e per quanto contino le amichevoli, Real Madrid resta in questo momento forse un passo avanti a tutti, anche guardando altrove. Assolutamente sì, e soprattutto perché leggo anche le dichiarazioni anche dei giocatori, ci sono tanti attestati in stima da parte anche dell'allenatore, da parte dei giocatori, dell'allenatore e dell'allenatore dei giocatori, quindi sono quelle cose che fanno sì che un gruppo possa durare anche a lungo. È chiaro che perché sai benissimo che lo stress è molto, e secondo me quando c'è la condivisione da parte dei giocatori con l'allenatore di quello che si fa, chiaramente tutto va per il meglio. Sì, poi c'è chi dice, leggo tanti campioni e poi Tarabt, Douglas Costa, Balotelli, Menes, ditemi dov'è l'errore. Beh, questo è un discorso che abbiamo fatto un milione di volte. L'errore è che il calcio italiano in questo momento, prima di tutto dal punto di vista economico, non può stare a quei livelli. E dunque, se volete vedere Bale, Kroos, James Rodriguez, Benzema, Cristiano Ronaldo, Schweinsteiger, tutti gli altri, conviene accendere la televisione, sedersi in poltrona e osservare, anche con un pizzico di invidia, io lo dico, Mimmo Di Carlo ha detto tifiamo tutti per Carletto Ancelotti, però un pizzico di invidia c'è per quello spettacolo lì. Grazie Mimmo. Grazie a voi, per l'invidia sono d'accordo, ma sono con l'idea e con il lavoro ci potremo riarrivare una volta anche noi. Grazie, alla prossima. Alla prossima, grazie a voi. Luigi da Bari. Buongiorno a tutti. Prego. Ritorno un attimo su Tavecchio Conte. Siamo qui apposta. Io tecnicamente non so se Conte sia quello giusto o quello sbagliato, non sono così competente, però pagherei i due eurini in Milan per la conferenza stampa Tavecchio Conte, magari con l'aggiunta di Balotelli, che sarebbe una cosa credo estremamente interessante da ascoltare. Non so cosa ne pensa lei. Ma penso che Tavecchio si presenterebbe col discorso scritto, Luigi, se posso fare una battuta. Al di là dell'ironia. Come è stato ieri, del resto. Sì. Prego. Poveri noi che non riusciamo ad esprimere dei dirigenti calcistici culturalmente adeguati, perché al di là di quello che sa fare, non sa fare, ma è un fatto culturale. In Italia ci sono centinaia di facoltà per ogni cosa e non c'è una facoltà universitaria che formi i dirigenti sportivi. C'è qualche tentativo. Sì, c'è qualche tentativo. Detto questo, però, Luigi, perdonami, Conte magari avrà qualche problema nella comunicazione, però come allenatore è al top. C'è chi contesta che sia il numero uno italiano, per carità, ogni opinione è assolutamente legittima. C'è un amico anche che ha scritto: il CT migliore non è Conte. Questo già è un discorso più tattico che condivido, perché continuo a ritenerlo un allenatore, non un selezionatore. Però al di là dei problemi di comunicazione che può avere Conte, resta certamente un allenatore eccellente, perché questo ha dimostrato nella parte iniziale ad alto livello della sua carriera. Filippo dalla provincia di Novara. Filippo. Sì, buongiorno. Prego. A tutti, grazie dell'opportunità. Ma a me in questi giorni, sentendo i tanti nomi proposti, mi è venuto uno che nessuno, non so se ha ancora detto, che è Di Matteo. Di Matteo, insomma, alla fine sì, uno dei grandi misteri del calcio italiano, cioè l'uomo che ha vinto la Champions con il Champions, con il Chelsea 2012, e poi è scomparso. Nessuno mai lo chiama, sì. È sparito, anche denominato, sì. Tranne in qualche trasmissione, ma pochissime. Sì, questa è una domanda legittima, ma sai cosa ti dico, Filippo? Proveremo a contattarlo, Di Matteo, ma anche per farci due chiacchiere, perché effettivamente è un mistero. È comunque un tecnico, un allenatore che ha fatto la sua esperienza, ha vinto, e non è un dettaglio, perché non è facile vincere, nemmeno se erediti una squadra importante come quel Chelsea. Eppure effettivamente sembra sparito da tutti i radar. Mistero. Ci fermiamo qui, grazie a Fabio Cantadori, grazie a Gianmarco Ferronato per le copertine, ci sentiamo domani, domani. Grazie, vi saluto tutti e forza Italia! Viva! Viva Italia! E viva! Abbiamo vinto! Abbiamo battuto l'Inghilterra!